Ad alta voce, Marco Foschi legge Gioventù senza Dio di Ödön von Horváth, traduzione di Bruno Maffi. L'esca. A casa trovo la solita busta azzurra, già, il club. Non avranno notato nulla. Apro e leggo. Ottavo rapporto del club. Ieri pomeriggio T è stato al cinema Cristallo. Ne è uscito con una signora elegante che deve aver incontrato nella sala. Con lei è entrato al numero 67 della via Y. Dopo mezz'ora è uscito sempre con la stessa signora. Si è accomiatato da lei per tornare a casa. La signora lo ha guardato allontanarsi, ha fatto una smorfia e ha sputato con ostentazione. Forse non era una signora. Era alta, bionda, paltò verde scuro, cappello rosso. Nient'altro da segnalare. Ti diventa galante, ma questo non mi interessa. Perché la donna ha fatto una smorfia? Certo, non era una signora, ma perché ha sputato con ostentazione? Bene, vado a chiederglielo. Perché voglio seguire tutti gli indizi, anche i più insignificanti, anche i più assurdi. Se il pesce non ha bocca all'amo, lo prenderemo con la rete. Una rete dalle maglie così fitte che gli sarà impossibile sfuggire. Vado al numero 67 della via Y e chiedo alla portinaia di una signora bionda. Mi interrompe. La signora Nella porta numero 17. La casa è abitata da gente modesta, buoni borghesi, e da una signorina Nella. Suono alla porta numero 17. Una biondina apre e mi dice: «Buongiorno, cocco, entra!» Non la conosco. In anticamera è appeso il paltò verde scuro. Su un tavolino è posato il cappello rosso. È proprio lei. Si irriterà certamente che sia venuto solo per una informazione, quindi le prometto di pagarle il solito onorario se risponde alle mie domande. Non si irrita, ma prende un'aria diffidente. «No, non sono della polizia», le dico. «Vorrei soltanto sapere perché ha sputato per terra ieri dietro al ragazzo. Prima il denaro». Glielo do. Si siede sul divano, mi offre una sigaretta. Fumiamo. «Non mi va di parlarne», dice, e continua a tacere. Poi improvvisamente si decide. «Perché ho sputato?» «Beh, è presto detto. Era una cosa ripugnante, ignobile». Si agita. «Perché?» «Immagini che è scoppiato a ridere». «Scoppiato a ridere?» «Mi ha fatto venire freddo alla schiena. Ero così arrabbiata che l'ho respinto. Gli ho dato uno schiaffo. Allora è corso davanti allo specchio e ha gridato: "Non è neppure rossa!" Non ha fatto che osservare, osservare. Se dipendesse da me, non mi lascerei mai più toccare da quel mostro. Invece, disgraziatamente, dovrò averne ancora il piacere». «Ancora? Chi te lo impone?» «Certo, imporre non mi lascerò mai nulla, ma è per far piacere a qualcuno che dovrò ricevere ancora quel bel tipo, anzi, dovrò fingere di essere innamorata di lui». «Far piacere a qualcuno?» «Sì, ho degli obblighi di riconoscenza verso una persona». «Chi?» «No, questo non lo posso dire». «No, Nella non lo dirà mai. È un signore». «Ma che cosa vuole questo signore?» Mi guarda, poi dice lentamente: «Vuole acchiappare un pesce». Ho un sussulto e grido: «Che cosa? Un pesce?» Lei si spaventa. «Che cosa le prende?» chiede e spegne la sigaretta. «No, no, Nella non dirà più una parola. Credo che lei sia pazzo. Via, via, arrivederci». Esco traballando, tanto sono turbato. Chi vuole acchiappare il pesce? Che succede? Chi è questo signore? Nella rete. Rientro e la padrona mi riceve tutta preoccupata. «C'è un signore che l'aspetta da mezz'ora», dice. «Ho paura, ha un'aria che non mi va. È in salotto». un signore. Entro in salotto. È già sera ed egli siede al buio. Accendo la luce. Ah, è Giulio Cesare. Finalmente, dice, e accende la sua testa da morto. Mi dia retta, collega. Che succede? Ho il pesce. Come? Sì, nuota già intorno all'esca, vicino, sempre più vicino. Questa notte abboccherà. Venga, non perdiamo tempo, la trappola attende. È ora. Quale trappola? Le spiegherò. Usciamo in fretta. Ma dove andiamo? Al Giglio. Eh? Un locale notturno. Giulio Cesare cammina in fretta. Comincia a piovere. Buon segno, dice, quando piove abboccano meglio. Ride. Mi vuole dire cosa sta combinando? Urlo. Le racconterò tutto appena saremo seduti. Presto, che si inzuppa. Ma come ha potuto prenderlo il pesce senza dirmi nulla? Volevo farle una sorpresa. Mi lasci questa gioia. Improvvisamente si ferma. Sebbene ora diluvi e lui abbia tanta fretta, mi guarda con un'espressione strana e dice lentamente: si domanda perché anch'io voglio prendere il pesce. Ma sei stato lei a parlarmene qualche giorno fa, ricorda? Poi si è seduta a un altro tavolo e ho notato com'era triste per via della ragazza e ho sentito il bisogno di aiutarla. Ricorda che si è seduto al tavolo? Ha scritto una lettera, credo. Una lettera? Ah, sì, ai miei genitori. Quando finalmente mi decisi a scrivere «Dio provvederà», barcollo. Che cos'ha? È pallidissimo, dice la voce di Cesare. Nulla, nulla. Beva qualche cosa. È tempo. Forse. Piove a scrosci. Ho i brividi. Per un attimo ho visto la rete. N. Il quartiere è così buio che stentiamo a trovare il Giglio. Dentro non è molto più chiaro. Ma ci fa caldo e almeno non piove. «Le signore sono già qui», dice la padrona indicando il terzo palco. «Bene!» esclama Giulio Cesare e volgendosi verso di me. «Le signore sono la mia esca, i vermiciattoli, per così dire». Nel terzo palco siede Nella con una cameriera grassa. Mi riconosce subito ma tace per abitudine. Si limita a sorridere. Un sorriso un po' agro. Cesare si ferma perplesso. «Dov'è il pesce?» chiede in fretta. «Non è ancora venuto», dice la donna grassa. La sua voce è tristamente monotona. «Mi ha preso in giro», dice Nella e sorride, dolce. «Ho aspettato 2 ore davanti al cinema», dice la donna grassa rassegnata. 2 ore e mezzo», corregge Nella e non sorride più. «Del resto sono ben contenta di non averlo visto». «Potevo immaginarmelo», dice Giulio Cesare e mi presenta un vecchio collega. La grassa mi squadra. Nella guarda in aria e si rimette a posto il reggipetto. Ci sediamo. L'acquavite brucia e scalda. Non c'è più nessuno al locale. La padrona infila gli occhiali e apre un giornale. Si piega al di sopra del banco e sembra che non voglia neppure sentire. Non sa e non vuol sapere nulla. Come possono fare da esca le 2 donne? «Mi dirà finalmente di che cosa si tratta?» chiedo a Giulio Cesare. Si china verso di me. «E in un primo tempo non volevo dirle nulla, egregio collega, poiché si tratta di una storia banale in cui non volevo mescolarla. Poi mi son detto che forse un testimonio di più non era male. Beh, ecco, volevamo, le 2 donne e io, ricostruire il delitto». «Ricostruirlo?» «Sì». «E come?» Volevamo che il pesce ripetesse il delitto. Lo ripetesse? Sì, in base a un piano che ha già superato la prova. Insomma, volevo ricostruire la faccenda in un letto. In un letto? Mi ascolti, collega, dice, e accende la testa da morto. La signorina Nella avrebbe dovuto aspettare il pesce davanti al cinema. Lui crede che gli voglia bene, ride, ma Nella fa una smorfia e sputa per terra. Non sputare, le grida l'amica, è proibito dalla legge. Al diavolo la legge, ribatte Nella. Niente politica, l'interrompe Giulio Cesare e si rivolge nuovamente a me. Il pesce avrebbe dovuto sbronzarsi al punto di non sapere più nuotare. Allora lo si sarebbe preso con le mani. Le donne l'avrebbero portato nella camera dietro questa tenda ed ecco quello che logicamente avrebbe dovuto accadere. Il pesce si sarebbe addormentato. Nella si sarebbe distesa per terra e questo barilotto l'avrebbe coperta di un lenzuolo, proprio come un cadavere. Poi si sarebbe gettata sul pesce dormiente e avrebbe abbaiato: «Cosa hai fatto, maledetto? Che cosa hai fatto?» Allora sarei entrato io in stato di ebbrezza, avrei gridato «Polizia!» e l'avrei accusato di aver ucciso Nella esattamente come aveva ucciso N. Avremmo fatto una bella scena e gli avremmo anche dato un paio di sberle. Scommetto, caro collega, che si sarebbe tradito. E se fosse stata anche sola una parolina, l'avrei tirato a riva. Sì, io, da solo. Non posso fare a meno di sorridere. Giulio Cesare mi guarda quasi controvoglia. Ha ragione, dice. L'uomo propone e Dio dispone. Se ci arrabbiamo, perché non a bocca, è forse la volta che finisce nella rete. Mi prende un brivido. Nella rete? Odo la voce di Giulio Cesare. Sorrida pure, lei pensa sempre soltanto alla ragazza innocente, ma io penso anche alla vittima. La vittima? Ma sì, N. Me l'ero già dimenticato. Ho pensato a tutti, anche ai suoi genitori. Penso spesso, per quanto senza amore, e mai a lui. Mai. È vero. N. Quello che è stato ucciso con una pietra e non è più. Il fantasma. Lascio il Giglio. Torno in fretta a casa e il pensiero di N che non è più non mi abbandona. Mi accompagna in camera, a letto. Devo dormire, ma non ci riesco. Sento continuamente la voce di N. Ha dunque dimenticato, professore, d'essere corresponsabile del mio assassinio? Chi ha forzato la cassetta, io o lei? E non l'ho pregata allora, mi aiuti professore, non ho fatto nulla, ma lei voleva tirare un rigo su un conto, un grosso rigo, lo so, e ora tutto è finito. Sì, tutto è finito. Le ore passano, le ferite rimangono, i minuti volano, corrono davanti a me, presto la sveglia suonerà. E di nuovo odo la voce di N. Professore, ricorda la lezione di storia dell'inverno scorso? Eravamo nel Medioevo e lei raccontava che a quei tempi il boia, prima dell'esecuzione, chiedeva perdono all'assassino del torto che stava per fargli, poiché la colpa può essere cancellata solo da un'altra colpa. Solo da un'altra colpa. E penso... Sono un carnefice? Devo chiedere perdono a N? Questo pensiero non mi lascia più. Mi alzo. Dove vai? Non lo so, lontano, il più possibile. Alt! N è davanti a me. Mi sbarra il passo. Non voglio più sentirlo. non ha occhi, ma non mi abbandona un minuto con lo sguardo. Accendo la luce e osservo il paralume. È coperto di polvere. Non posso liberarmi dal pensiero di T. Nuota intorno all'esca, oppure... Improvvisamente N domanda: perché non pensa che a se stesso? A me stesso? Sì, non pensa che al pesce, ma professore, il pesce e lei sono una cosa sola. Una cosa sola. Lo vuol prendere? No? Certo, ma come mai siamo una cosa sola, io e lui? Dimentica il boia, professore, il boia che chiede perdono all'assassino. Nell'attimo misterioso in cui una colpa è cancellata da un'altra colpa, il carnefice si fonde con l'assassino in un solo essere. L'assassino è, in certo modo, assorbito dal boia. Capisce quello che voglio dire? Sì, comincio poco a poco a capire. No, non voglio sapere più nulla. Ho paura. Potrebbe prenderlo e tuttavia lo lascia ancora nuotare, dice N. Anzi, comincia già a compiangerlo. Esatto. Sua madre non ha tempo per me. Ma deve pensare anche a mia madre, professore, e soprattutto a me. Anche se vuol prendere il pesce, non per me, ma per la ragazza, per una ragazza alla quale del resto non pensa più. Ascolto, è vero, ha ragione. Non penso a lei, già da qualche ora. Che faccia ha? Fa sempre più freddo. La conosco appena. Certo, certo, l'ho vista, ma era al lume della luna e le nubi oscuravano la terra, ma che capelli ha, neri o biondi? Strano, non lo so. Tremo dal freddo, tutto si annebbia. E al processo? So soltanto che mi ha fatto un piccolo accenno con la testa, prima di dire la verità, e allora ho sentito che dovevo, in un modo o nell'altro, aiutarla. È N ora che ascolta. Le ha fatto un piccolo cenno con la testa? Sì. E penso ai suoi occhi. Ma, professore, non ha gli occhi che lei crede. Ha dei piccoli occhi freddi e astuti che spiano dappertutto. Occhi da ladra. Occhi da ladra? Sì. Ed un tratto diventa stranamente solenne. Gli occhi che la guardavano, professore, non erano gli occhi della ragazza, erano altri occhi. Altri occhi? Sì. Il capriolo. A notte alta suona il campanello. Chi suona? Oh, mi sono sbagliato. No, suonano, di nuovo. Salto giù dal letto, indosso la vestaglia, vado ad aprire. La padrona è già in piedi, assonnata e confusa. Chi è? Chiede inquieta. Chi è? Chiedo attraverso la porta. Polizia! Gesù! Grida la padrona spaventatissima. Che cosa ha fatto, professore? Io? Niente. Due commissari entrano, chiedono di me. Sì, sono io. Veniamo per una semplice informazione. Si vesta e ci segua. Dove? Glielo diremo più tardi. Mi vesto in fretta, ma che cosa sarà accaduto? Eccomi in automobile. I commissari continuano a tacere. Dove andiamo? Le belle case si fanno sempre più rade, poi vengono le brutte. Attraversiamo povere strade e raggiungiamo l'elegante quartiere delle ville. Mi prende un senso di paura. Signori, dico, in nome del cielo, che cosa è accaduto? Più tardi. Ecco il capolinea del tram, ma noi proseguiamo. Adesso so dove andiamo. Il maestoso cancello è aperto, lo oltrepassiamo, nessuno ci annuncia. Il vestibolo è pieno di gente. Riconosco il portinaio e il cameriere che mi hanno accompagnato nel salotto rosa. A un tavolo siede un alto funzionario di polizia. Tutti gli sguardi si volgono verso di me, scrutatori e ostili. Che delitto ho compiuto? Venga avanti, ordina il funzionario. Mi faccio avanti. Che cosa vogliono da me? Dobbiamo farle alcune domande. Dunque, lei ha chiesto di parlare alla signora e accenna a sinistra. Guardo. Una signora in abito da sera seduta, elegante, curata. La madre di T. Mi guarda carica d'odio. Perché? Risponda, dice il funzionario. Sì, rispondo. Volevo parlare alla signora, ma disgraziatamente non aveva tempo. E che cosa voleva raccontarle? Esito. Ma a che serve ormai? No, non voglio più mentire. Volevo soltanto dire alla signora, comincio lentamente, che ho un certo sospetto su suo figlio. Non dico più niente perché la madre balza in piedi. Lei mente, gracchia. Solo lei ha colpa. È lei che ha spinto mio figlio a uccidersi. Lei. Lei solo. Barcollo. Ah, uccidersi? Ma che cosa è successo dunque? Silenzio, ordina il funzionario. E apprendo che il pesce è già caduto nella rete. È stato tirato a riva e non guizza più. Morto. Rincasando, un'ora prima, la madre ha trovato un biglietto con queste parole: il professore mi ha spinto alla morte. È corsa nella camera di T. T era sparito, ha svegliato tutti, hanno frugato per tutti gli angoli della casa e del parco, nulla, hanno chiamato T. Nessuna risposta. Finalmente l'hanno scoperto, vicino a un fosso. Si era impiccato. La madre mi fissa. Non piange, non può piangere, penso. Il funzionario mi mostra il biglietto. È un pezzo di carta stracciato, senza firma. Forse ha scritto di più, penso, e guardo la madre. Tutto qui? Chiedo al funzionario. La madre guarda da un'altra parte. Sì, tutto, risponde il funzionario. Si giustifichi. La madre è una bella donna. La sua scollatura è più profonda dietro che davanti. Certamente non sa che cosa voglia dire non avere niente da mangiare. Scarpe eleganti, calze così fini che è come se fosse senza. Gambe piuttosto grosse. Il suo fazzoletto è piccolo. Di che cosa sa? Certo di un profumo di lusso, ma poco importa con che cosa si profuma. Se il padre non avesse posseduto un'azienda, la madre avrebbe avuto soltanto il profumo di se stessa. Ora mi guarda, quasi ironica, occhi chiari e rotondi. Che cosa aveva detto T nella pasticceria? Ma professore, non ho occhi da pesce, io ho occhi da capriolo. Mamma lo dice sempre. E non ha aggiunto che gli stessi suoi occhi li aveva lei? Non ricordo. Guardo la madre. Aspetta, capriolo. Presto nevicherà e tu ti avvicinerai agli uomini. Allora ti inseguirò nella foresta dove la neve è alta un metro, dove morirai di freddo, dove morirai di fame. Guardami pure. Ora parlo. Gli altri occhi. E parlo del ragazzo sconosciuto che ha ucciso N. Racconto che T voleva vedere come un uomo viene al mondo e come se ne va, la nascita e la morte, e ciò che fra l'una e l'altra avviene. Tutto voleva sapere. Voleva conoscere tutti i segreti, ma solo per dominarli col suo disprezzo. Non conosceva Brivido. La sua paura era soltanto viltà. E il suo amore del reale era soltanto odio della verità. E, mentre parlo, mi sento d'un tratto meravigliosamente leggero. Perché T non è più. Me ne compiaccio. Uno di meno. Sì. Me ne compiaccio. Poiché, nonostante tutta la nostra corresponsabilità nel male, è bello, è magnifico quando un malvagio è annientato. E racconto tutto. Signori, dico, c'è una segheria che non lavora più e dei bambini che siedono alle finestre e dipingono bambole. Che c'entra tutto questo? Chiede il funzionario. La madre guarda dalla finestra, fuori è notte, si direbbe che ascolti. Che cosa sente? Dei passi? Il cancello è aperto. Non ha senso voler tirare una riga sul conto, dico, e improvvisamente odo le mie parole. La madre mi fissa di nuovo e io continuo a udire me stesso. Può darsi che abbia spinto suo figlio alla morte. Mi fermo. Perché sorride la madre? Continua a sorridere. È pazza. Si mette a ridere forte, più forte. Ha un attacco. Grida e piange. Sento solo la parola Dio. Poi sibila. No, non ha senso. Cercano di calmarla. Si dibatte. Il cameriere la tiene stretta. Oh, quella sega. La segheria? Vede forse i bambini alla finestra? È arrivato il signore che non bada al tempo che lei ha, perché passa per tutte le strade, piccole e grandi? Continua a dibattersi. Ed ecco, lascia cadere un pezzo di carta, come se qualcuno le avesse picchiato sulle dita. Il funzionario lo raccoglie. È un pezzo di carta sgualcito. Il seguito del biglietto sul quale T ha scritto «Il professore mi ha spinto alla morte». Su quel pezzo T ha scritto che cosa l'ha spinto alla morte. Perché il professore sa che sono stato io a uccidere N con la pietra. Nella stanza si fa un grande silenzio. La madre sembra sfinita. Si è seduta e non si muove più. Improvvisamente sorride e mi fa un cenno con la testa. Che cosa succede? No, non è più lei. I suoi occhi non sono più i suoi. Sono calmi come laghi profondi nelle foreste del mio paese e tristi come un'infanzia senza luce. È così che Dio ci guarda, penso. Una volta credevo che avesse occhi maliziosi e pungenti. No, no. Dio è la verità. E odo di nuovo la sua voce. Di che sei stato tu a forzare la cassetta. Fammi questo piacere. Non offendermi più. Adesso la madre si avvicina al funzionario e dice a bassa voce ma ferma. Volevo risparmiarmi la vergogna, ma quando il professore ha parlato dei bambini alla finestra ho pensato, no, non ha senso. Verso altri cieli. Domani parto per l'Africa. Sulla mia scrivania ci sono dei fiori, l'addio della mia padrona di casa. I miei genitori mi hanno scritto. Sono contenti che io abbia trovato un posto e tristi che io vada lontano, al di là del mare. E c'è un'altra lettera, una busta azzurra. Cari saluti ai negri, il club. Ieri ho visto Eva. È felice che il pesce sia stato preso. Il parroco mi ha promesso di occuparsi di lei quando uscirà di prigione. È vero, ha occhi da ladra. La procura di Stato ha sospeso il procedimento giudiziario contro di me.